60 anni ho lavorato. Ho iniziato a lavorare come magazziniere alla cooperativa nel 1918. Aveva 18 anni, ecco, è dei 40 anni che sono italiano, dal 66, perché appunto ho lavorato 20 anni dal che vieni. Allora si metteva la matita sulle edizioni a fare i conti, non erano calcolatrici di niente. Insomma, l'anno 30 ha cominciato a lavorare, aveva 18 anni, a un classico, sì. Mi ricordo tutte le... sì, per quel... Cooperativa Era la cooperativa. Ricordo che si lavorava tanto perché lì non era mica a Caliere, lì tre, ed era la cooperativa a Caldis che serviva tre paesi, quattro. E allora che era da lavorare. E sono trovato anche bene, e lì ho trovato l'amoroso. Portare i quintali sulla schiena allora, adesso no. Allora lui via i sacchetti delle corna era quintali di farina bianca, farina gialla, mangime per le bestie, tutta quella roba lì. Serviva quel lavoro lì e serviva al banco. Tu l'era farina gialla, pasta, capasta, per quello, dopo si dedicava a gnocchi, patate che aveva in casa, per quelli viveva anche abbastanza bene. Non gli ha sentito proprio il peso della guerra che è stata. Gli aveva tutti una mucca, due, tre, quattro, tutte le famiglie. E invece adesso... magari da stalla di alcune bestie, ma se no come familiari non gli chiedeva più bestie. Allora gli aveva le capre, gli aveva le pecore, maiali, insomma ogni famiglia la aveva qualcosa. E su quel i genitori, invece chi ne aveva, per esempio i miei genitori, mio papà era stato in Austria. Lavorava la via, a driva legnami. Insomma, dai, era sempre cavata abbastanza bene. Quando andavano a quel mulino di Grotta, mulino di Caliano che adesso stanno facendo quel condominio sulla strada, quello era un mulino. Qui macinava tutto il grano, la polenta, aveva un lavoro spettacolare qui, si parlava di tonnellate di lavoro all'anno. Fino anche dopo quest'ultima guerra, fino a 25-30 anni fa il mulino te lo ricordai quando andava. Portare un sacco da 100 kg era normale. Gente che un vitello bello grosso di 5-6 mesi, se lo mettevano sotto il braccio se lo caricavano. C'era la differenza, noi che venivamo dalle campagne, ma io quando andavo in città Rovereto, io ero considerato dai cittadini, ero considerato un campagnolo. Ma c'era la differenza fisica fra un ragazzo di città e uno della campagna, perché noi eravamo abituati a molte fatiche anche giocando.